questo secolo che è così troppo veloce per noi. Si corre, si cerca, oh, che cosa non si sa. E questo non perché basta che già ti allontani da me. Quanti capita e senza saperne.